Buongiorno. Buongiorno. Anzi, diciamo che insomma, proprio un buongiorno non è. È una sì, diciamo che è stato un risveglio un po' terribile. Allora, raccontaci un po', insomma, cosa è successo. Innanzitutto facci un po' un panorama di quella che era l'occupazione sia del Guernica che l'occupazione di case che c'era a Modena e quello che è successo questa notte. Ma allora, questa occupazione stava andando avanti da più di 5 mesi. Un'occupazione che ha visto evolversi sempre di più i vari laboratori che erano stati messi in piedi con le prime occupazioni, che sono questo laboratorio di elettronica con l'ElectroLab, che al di là delle serate in sé erano partiti tutti i workshop proprio specifici di elettronica. In più c'era questo laboratorio di pop, di quale insomma tutti i giovedì sera vedeva diverse formazioni di ragazzi venire a fare esercitazioni, sperimentazioni, e inoltre era partita tutto quello che era il discorso della palestra popolare insieme a diversi eventi culturali, tra cui quello che dovevamo fare mercoledì con Mancassola, che è uno scrittore che scrive anche per il Manifesto, che verrà spostata alla nostra sede politica in centro Modena. E in più insomma tutto quello che è stato il percorso del Guernica, quindi socialità, tutto un modo di aggregazione diverso all'interno della città di Modena, in questi 5 mesi proprio si è evoluto e si è proprio toccato con mano la forza di questo spazio, con serate con picchi di più di 1300 persone, gente che ha attraversato lo spazio, l'ha fatto vivere e è diventata anche militante, insomma, quindi un'esperienza che dopo 3 occupazioni, questa era la quarta, insomma, stava cominciando a diventare sempre più forte. Difatti insomma, i risultati poi si sono visti con il corteo fatto il 6 maggio durante lo sciopero generale della CGIL, dove noi abbiamo fatto il nostro spezzone antagonista e autonomo, che ha visto più di 300 persone all'interno del nostro corteo fino al raggiungimento della piazza dove c'erano i comizi, per poi uscire da questa piazza con oltre 500 persone che insomma, con i quali abbiamo girato anche per la città di Modena, e insomma si aveva prevista la forza della politica dello spazio. Infatti noi diamo la colpa al comune di questi nuovi sgomberi, proprio perché stiamo cominciando a dare fastidio alla politica all'interno della città di Modena. Non a caso in contemporanea ci sono state gli sgomberi di una delle palazzine occupate di proprietà proprio del comune, e proprio lì, in questa occupazione qua, noi siamo proprio entrati nel merito delle politiche modenesi sbagliate. Non a caso questa amministrazione ha portato Modena a essere una delle prime città con sfratti e case vuote, e in contemporanea di questi numerosi sfratti e di tutte queste case vuote vediamo crescere sempre di più una cementificazione all'interno della città molto spaventosa, insomma. Senti, ma quindi cosa è successo? Un po' il quadro, poi lo sgombero è stato tutto tranquillo, nel senso che noi abbiamo sempre ripetuto che a noi non ci interessa il posto in sé che andiamo a occupare, a noi interessa portare avanti le politiche del Guernica e arrivare a farci assegnare un posto, insomma. Quali saranno le prossime mosse, insomma, che avete previsto per questi giorni? Non so se ci saranno degli appuntamenti. Sicuramente il percorso non si ferma, come è stato per le altre occupazioni e gli altri sgomberi. Quindi valuteremo un po' qual è la situazione. Modena è una città che ci fornisce molti spazi vuoti, questa è l'altra contraddizione, insomma, molti spazi vuoti, capannoni vuoti colpiti dalla crisi, nel frattempo continuano a costruire, questa è un po' anche l'altra contraddizione in merito agli spazi. E adesso valuteremo, il 14 maggio a Modena c'è la Notte Bianca, quindi valuteremo proprio se continuare, insomma, se fare qualcosa sempre in merito allo sgombero. Però sì, diciamo che il percorso non si ferma di certo con questo sgombero, insomma, noi andremo avanti e poi vediamo se l'amministrazione comunale deciderà di cominciare veramente un dialogo serio, oppure continuerà con il suo silenzio a mantenere tutto questo punto, questi punti di domanda. Non a caso, insomma, noi, insomma, ripeto, diamo la maggior parte della colpa a loro, c'è, cioè, un'amministrazione comunale targata PD, ma che in realtà si vede proprio che sta inseguendo le politiche della Lega, con politiche securitarie, legalitarie, in quella direzione lì. Va bene, noi ti salutiamo e ci...